Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti ancora a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che oggi ritorna su un personaggio a noi molto caro evidentemente. Parlo di Gianni Rodari, un autore, militante, intellettuale, giornalista e quanto più si può dire di Gianni Rodari, che più volte abbiamo scandagliato con voci diverse per completare una panoramica possibile delle diverse prospettive, delle diverse angolazioni con le quali si possono leggere questo grande personaggio della cultura italiana. Oggi lo facciamo spostandoci all'Università di Padova, dove troviamo la studiosa di letteratura per l'infanzia Donatella Lombello, e con lei, attraverso libri come La grammatica della fantasia oppure La torta in cielo, scopriremo altre appunto visualità possibili di Gianni Rodari. Ascoltiamo. Rodari dice di se stesso: cominciai a fare l'insegnante elementare. E sentite cosa dice: dovevo essere un pessimo maestro, mal preparato al suo lavoro, e avevo in mente di tutto, dalla linguistica indoeuropea al marxismo. Avevo in mente di tutto, fuorché la scuola. Forse però non sono stato un maestro noioso. Raccontavo ai bambini, un po' per simpatia, un po' per la voglia di giocare, storie senza il minimo riferimento alla realtà, né al buon senso, che inventavo servendomi delle tecniche promosse e insieme deprecate da Breton. Allora qui incontriamo già un nome piuttosto significativo: surrealismo, Breton, tecniche amate ma nello stesso tempo deprecate. Ma Rodari nella pagina prima ci parla del suo incontro con i frammenti di Novalis, questo poeta romantico morto giovanissimo, il quale nei frammenti ad un certo punto scrive: se avessimo anche una fantastica come una logica, sarebbe scoperta l'arte di inventare. E che cosa fa Gianni Rodari? Appunto, finché lavora con questi suoi allievi in quanto maestro elementare, incomincia a raccogliere i propri appunti non sul modo in cui nascevano le sue storie, ma sui trucchi che mano a mano egli andava scoprendo per rendere più accattivanti, più divertenti, più piene di interesse queste storie o queste filastrocche o queste poesie. E pensate che questo brogliaccio, questo modesto scartafaccio, come lo chiama lui, riceverà da Rodari stesso il titolo di quaderno di fantastica. Allora, il quaderno di fantastica non è altro che, come dire, la raccolta primigenia di ciò che permetterà poi di essere, di diventare la pubblicazione che ho tra le mani, vale a dire Grammatica della fantasia. E quindi Gianni Rodari appunto viene sollecitato a scrivere proprio perché è continuamente in contatto con i suoi allievi, perché è con loro, sulla loro sollecitazione, che egli ama inventare le storie. Naturalmente in questa Grammatica della fantasia i riferimenti sono molteplici. Egli parla dello straniamento, ad esempio, quando egli parla del binomio fantastico, quindi della possibilità di utilizzare due parole che non hanno niente in comune e che quindi queste due parole messe insieme, come cane o armadio ad esempio, su questo lui e i bambini costruivano dei racconti che non avevano probabilmente alcun senso o che poi riuscivano ad avere un senso, ma appunto tutto questo veniva composto perché a monte Gianni Rodari si rifaceva ad esempio a Slowski, si rifaceva addirittura a Ernst quando parla dello straniamento e dello spaesamento di De Chirico, e quindi per esempio nella grammatica della fantasia egli parla dell'esse, del prefisso arbitrario, quindi dell'esse davanti alle parole, parla dello stemperino, cioè del temperino che fa crescere le punte alle matite, parla dello staccapanni, che è un attaccapanni in cui ci sono già tutti i cappotti e quindi la gente quando ha freddo va lì e si stacca il cappotto. Quindi come vedete anche la proposta di Rodari è sempre in una prospettiva di, potremmo dire, di soluzione dei problemi, e i problemi che egli sente sono tantissimi: il problema della povertà ad esempio, il problema della morte, il problema di un'infanzia, dell'infanzia che è un'infanzia spesso vessata, ad esempio I piccoli vagabondi, che è una raccolta edita nella, appunto raccogliendo le parti che erano uscite sul Pioniere tra il 52 e il 53 e che fu poi ripubblicato dagli Editori Riuniti a cura di Marcello Argilli. Bene, qui ad esempio Gianni Rodari parla della vita faticata di questi tre bambini venduti a chi li sfruttava per richiedere l'elemosina. Qui abbiamo un'atmosfera dickensiana, abbiamo delle atmosfere cupe che ci rimandano ai classici della letteratura per l'infanzia, e qui io vorrei affiancare un altrettanto libro ambientato nello stesso periodo del secondo dopoguerra, che è Tre in tutto, appunto, che parla di questi bambini accolti invece in una Emilia Romagna generosa, in cui i bambini impareranno appunto il sapore dei tortellini e della polenta. E questo libro è edito da Orecchio Acerbo, vale a dire di quell'orecchio acerbo di cui ci parla Rodari, che è quell'orecchio che quell'adulto che si trovava in treno dice di avere, ed è l'orecchio che è rimasto infantile per poter capire il linguaggio dei bambini e i desideri dei bambini. Quindi dicevo che Gianni Rodari parte sempre dall'aggancio con gli allievi, con i bambini, con le sollecitazioni. Un esempio assolutamente evidente è questo della torta in cielo, in cui egli descrive come questa storia sia nata nelle scuole elementari Collodi, Borgata del Trullo, Roma, tra gli scolari della signorina Maria Luisa Bigiaretti, che hanno finito la quinta nel 64. E allora io ho tra le mani questo volume di Maria Luisa Bigiaretti, La scuola anti tran tran, in cui appunto la Bigiaretti parla di tutta la vasta esperienza compiuta con Rodari, ma non solo con Rodari, l'incontro col favoloso Gianni ad esempio, ma non solo con Rodari, in cui i suoi bambini, i suoi scolari hanno imparato a costruire storie, e in realtà la torta in cielo nasce appunto dalla sollecitazione di questa classe. Compito: per domani scriverete 10 nomi comuni, 10 nomi propri, 10 nomi collettivi, 10 nomi astratti, 10 nomi concreti, 10 nomi primitivi, 10 nomi derivati, 10 diminutivi, 10 accrescitivi, 10 dispregiativi, 10 nomi composti, 10 nomi maschili, 10 nomi femminili, 10 indipendenti, 10 promiscui, 10 nomi difettivi, 10 nomi indeclinabili, 10 sovrabbondanti, 10 arcaismi, 10 neologismi, 10 barbarismi, 10 cataclismi. Abbiamo parole per vendere, parole per comprare, parole per fare parole. Andiamo a cercare insieme parole per pensare. Andiamo a cercare. pensare. Le parole, testo di Rodari, canta Sergio Endrigo, ma continuiamo ad ascoltare Donatella Lombello, che è una studiosa di letteratura per l'infanzia. Qual è la particolarità di Gianni Rodari, giusto per poi concludere rapidamente? La particolarità di Gianni Rodari è quella di partire dalla concretezza dei desideri dei bambini, dalle loro sollecitazioni, ma in realtà poi la sua narrativa è una narrativa che, a parte i vagabondi, è una narrativa che prende le mosse dalla narrativa realistica, quindi dal novel, diremmo in termini tecnici, per approdare però al romance, quindi alla letteratura fantastica. E un esempio, ma lo è anche La torta in cielo, ma lo sono tutte le opere di Rodari in linea di massima, è questo esempio della Freccia Azzurra. La Freccia Azzurra che è appunto edita nel 64 dagli Editori Riuniti, che era la casa editrice a cui si rivolgeva Rodari. La Freccia Azzurra è un romanzo che si sviluppa tra una festa dell'Epifania e la festa dell'Epifania un anno dopo. In quest'arco temporale dell'anno succedono tanti avvenimenti. L'avvenimento principale è che la Befana, con la sua fedele serva Teresa, ritorna con la scopa e appunto ritorna in quello che è il suo negozio di giocattoli, perché questa Befana non è come la Befana delle fiabe, che è ricca e che può regalare giocattoli a tutti. Lei è una Befana che deve tenere una certa contabilità e quindi nega al povero Francesco la possibilità di avere un trenino, che è sta Freccia Azzurra, che lei, il giorno dell'Epifania, tornando appunto da questo viaggio intorno al mondo, colloca insieme ad altri doni sulla vetrina. Allora voi dovreste leggere come Rodari ci parla della Freccia Azzurra, del capostazione, del macchinista, del capotreno, della pianura intorno alla stazione in cui si sono accampati Pelle Rossa con il loro capo Penna d'Argento, e sui monti dietro a questa pianura ci sono i cowboy con i loro lazos, ma a metà altezza c'è l'aeroplano con pilota seduto. Naturalmente questi nomi sono tutti comuni, ma sono scritti con la maiuscola perché diventano nomi propri nel libro di Rodari. E quindi qui abbiamo appunto questa bellissima dipanarsi di tutti i protagonisti, tra cui un cane di pezza che non può abbaiare, che poi è colui che porterà avanti la storia, perché andrà a cercare questo Francesco che era innamorato della Freccia Azzurra, non lo troverà, e tutti i giocattoli che nell'arco di un anno cercano di capire come fare a gratificare Francesco decidono di scappare dalla vetrina giusto nella notte dell'Epifania e di andare a trovare Francesco. Non riescono a trovare Francesco, e qual è la soluzione di apertura e di dare il tutto a tutti, qualcosa a tutti anziché tutto a uno solo? La soluzione è quella di far sì che tutto questo gruppo di giocattoli numerosissimo, perché ci sono i pastelli, ci sono le bambole, tra queste c'è la bambola nera, sempre con rigoroso nome scritto in maiuscolo, e appunto arriveranno poi a fermarsi ciascuno in una presso una famiglia in cui un bambino aveva richiesto un dono che non avrebbe mai potuto avere, perché appunto questa Befana non poteva regalare questi doni. E qual è la particolarità della Freccia Azzurra? Questo intersecarsi tra il piano della narrativa realistica, quindi il bambino vero, il metronotte vero, i poliziotti veri, e dall'altro lato invece questi giocattoli che partono, che si organizzano, che si arrabbiano tra di loro, che trovano delle soluzioni. La particolarità che vorrei rilevare nella Freccia Azzurra è proprio questa, cioè l'attenzione che Rodari ha da un lato per la cronaca, oggi diciamo la storia, e dall'altro per il ruolo femminile o maschile, cioè per questo rispetto del genere. Ad un certo punto Bambola Nera deve andare a confortare Livia, quindi ad essere il giocattolo di Livia, però Bambola Nera è innamorata del pilota seduto. E sentite cosa dice Bambola Nera. Ma in fin dei conti, gridò tra i singhiozzi Bambola Nera, perché non potrebbe venire anche il pilota seduto da questa bambina Livia? Gli aeroplani sono forse fatti soltanto per gli uomini? Al giorno d'oggi le donne volano nel cosmo, tale e quale come i signori maschi, e io non vedo perché la bambina Livia dovrebbe accontentarsi di una bambola. Allora, due riflessioni. Da un lato l'aggancio con la cronaca, perché nel 63 la Valentina Tereshkova era andata nel cosmo, quindi una donna nel cosmo, nello spazio. E dall'altro lato, ma perché la bambina Livia si deve accontentare solo della bambola? E allora io vorrei richiamarmi ad una collana di questi ultimissimi anni della Editi Gira l'Angolo, che si intitola Sottosopra, in cui appunto giochi, ruoli, eccetera, vengono assolutamente capovolti senza etichettarli come maschile o femminile. Si è aperta a Bologna una mostra di fumetti davvero importante, perché viene un grande delle nostre strip italiane, ovvero sì Andrea Pazienza. La mostra aperta in maggio continuerà fino a settembre a Palazzo Albergati, e che appunto presenterà una serie di opere e di tavole di quest'artista nativo abruzzese, ma evidentemente di stanza a Bologna, perché arrivò nel 77 proprio a Damsa, la nostra città, e quindi ha più tardi ha partorito queste straordinarie avventure di Pentotal, Zanardi, Pompeo, insomma tutto ciò che da Alter Altri in avanti fece la fortuna e l'importanza di questo personaggio. E allora noi, con William Piana della nostra redazione, abbiamo interpellato Mauro Uzzeo, che è curatore assieme a Stefano Piccoli e Alina di questa mostra, che si intitola Andrea Pazienza, 30 anni senza. Riprendono i percorsi in presenza, siamo a Palazzo Albergati, e che pazienza abbiamo aspettato, ma ne è valsa la pena. Ritorna un grande, non solo per la nostra città, Andrea Pazienza. Siamo con il curatore, abbiamo il piacere di conoscere Mauro Uzzeo. Allora, che pazienza troviamo dopo tanta attesa? Beh, guarda, anche per noi è un'enorme gioia dopo aver organizzato già altre mostre di Andrea Pazienza, ma portare Andrea Pazienza a Bologna per me e Stefano, che è l'altro curatore, è stata un'emozione enorme, perché la carriera di Andrea, il percorso artistico, personale e come autore è inevitabilmente legata a Bologna. Lui ne ha raccontato l'urgenza artistica, la furia, le avventure notturne di giorno tra i banchi di scuola e le rivoluzioni studentesche. Insomma, pensare Andrea Pazienza senza Bologna sarebbe impossibile. Avere l'onore, grazie a Artemisia e Piuma, di riportarlo proprio qui è stato enorme. Per questo abbiamo deciso di fare una mostra come fino all'estremo, proprio per dire vogliamo che sia una mostra che lasci il segno, con un segno forte come aveva il segno forte Andrea Pazienza, che non riusciva a fare un qualcosa che fosse meno che potente. Nelle nostre ambizioni c'è la volontà di restituire proprio quell'Andrea Pazienza lì. Sono anni forti e caldi, 77-84, lui inizia già dal 78 in maniera attiva, con tanta partecipazione, portando un segno incisivo, come giustamente hai detto. È una mostra ricca, quante opere? Sono oltre 100 opere che di una densità tale da apparire il doppio, perché abbiamo deciso di puntare su quelle che maggiormente portano all'estremo. Per farvi un esempio, quando Andrea Pazienza nel 77 realizza Pentotal, la sua opera d'esordio, la manda in stampa il giorno stesso della morte di Francesco Lorusso, attivista di Lotta Continua. Lui blocca la messa in stampa per aggiungere un finale, perché dal suo punto di vista quello che era appena avvenuto cambiava totalmente l'ottica e l'approccio alle rivoluzioni studentesche che lui stava raccontando. Per cui lui blocca la messa in stampa, ridisegna le ultime due pagine riempiendole di uno sgomento realissimo, che nell'epoca in cui in quel momento il fumetto era Tex e Topolino, cioè due opere che al di là della grande qualità con cui venivano realizzate erano comunque slegate dall'immediato della realtà. Invece lui non lo sapeva, Andrea, ma stava inventando il graphic journalism, praticamente il graphic novel unito col graphic journalism, grazie all'urgenza narrativa che aveva di riversare su carta quello che viveva. Percorso in mostra. Allora, un percorso particolare, partiamo al contrario, partiamo dalla fine per tornare all'inizio, perché diciamo, nonostante non fosse assolutamente la sua ultima opera, però il compimento, il testamento artistico di Andrea viene sempre detto che è Pompeo, gli ultimi giorni di Pompeo. Questo forse perché molti rivedono nel protagonista un alter ego dell'autore, e come sappiamo tutti Pompeo ha un finale in cui protagonista stesso pone fine alla sua vita in una maniera, in una posa quasi cristologica. Allora noi abbiamo deciso di partire da lì, da questa via crucis che vive Pompeo, associandola, come vedrà chi viene alla mostra, alla via crucis del Tiepolo, in un accostamento che non è una mera provocazione intellettuale, ma c'è un ragionamento dietro che punta al fatto che la via crucis non comprendeva la risurrezione di Cristo fino a qualche anno fa, che è stata una quindicesima tappa aggiunta dopo, e in Pompeo c'è una via crucis senza resurrezione. Però noi la resurrezione la ipotizziamo nel tornare indietro, nell'immaginare di poter tornare indietro da quel momento, e quindi il secondo momento grande della mostra è dedicato a Zanardi, e quindi alle avventure studentesche e a un aspetto che poi avrebbe terribilmente preso piede, perché per quanto sia impossibile non voler bene a quello che è il cattivo più bello della storia dei fumetti, ossia Zanardi, ma Zanardi rappresentava uno specchio di quella gioventù figlia dell'alta borghesia, annoiata, violenta, che cominciava a compiere la cosa della delinquenza giovanile. E infatti, se vedete in mostra, noi abbiamo associato l'edonismo di Zanardi e Colas, che erano belli, voluti dalle donne, fisicati, e allo stesso tempo uscivano a menare, a compiere mille feratezze, a pagine della nostra storia terribile. È impossibile non vedere le foto dei fratelli bianchi di Colleferro con i loro fisicati bellissimi, palestrati, e non associarli a quello che Andrea prevedeva sulle pagine di Zanardi. E poi infine arriviamo a Pentotal, dove rappresentiamo un'altra gioventù di quegli anni, che però invece scendeva in piazza per degli ideali. Quindi c'è un percorso salvifico, si torna indietro facendo una provocazione proprio ad Andrea, che citava sempre la frase attribuita a Che Guevara, che in realtà era di Fidel Castro, che era mai tornare indietro neanche per prendere la rincorsa, e Andrea ogni tanto la citava questa frase. E noi invece in questa mostra chiediamo per una volta di tornare indietro e di sperare in un mondo migliore. Provenienza delle opere, ho letto che molto vicini al protagonista sono i collaboratori nel donare questa esposizione. Assolutamente sì, perché le opere che si vedono in mostra sono state prese dalle persone che più di tutte nella loro vita sono state vicine ad Andrea. Abbiamo opere date dalla persona che oltretutto ha curato con noi la direzione artistica della mostra, che è Marina Comandini, la moglie di Andrea Pazienza. Ci sono opere a cui comunque, che ci ha donato tutte quelle di Pompeo, di Zanardi e Pentotal. Abbiamo moltissime opere anche di Mariella e Michele, i fratelli di Pazienza, e a loro dobbiamo lo splendido corteo a Bologna che troviamo qui in mostra e che non veniva esposto da oltre 24 anni precisi, perché Michele e Mariella organizzarono qui a Bologna l'antologica nel 96, tuttora forse la mostra inarrivabile dedicata a Pazienza, e qui venne esposto il corteo a Bologna, ultima ma non ultima anche Elisabetta Pellerano, che è stata compagna di Andrea per tanti anni, e grazie a lei abbiamo avuto la possibilità di esporre alcuni capolavori di Andrea che appunto non vengono visti da tantissimi anni dal vivo, come Betta sullo squalo, che secondo me vale da sola il biglietto della mostra. Allora, mi permetto una piccola digressione personale, ti do del tu, sei giovanissimo, si può dire che Pazienza quindi è tutti i tempi, anche in proiezione futura? Assolutamente sì, ma hai detto una cosa che mi riempie di felicità, perché uno dei desideri miei di Stefano, quando abbiamo fatto la curatela di questa mostra, era immaginare Andrea Pazienza raccontato non tanto a chi lo conosce, lo ha visto mille volte, ma a chi entra per la prima volta qui dentro leggendo fino all'estremo. Dice: ma che vuol dire fino all'estremo? Giusto. Perché magari ha una certa idea di com'è il fumetto oggi, e invece vedrà delle cose che speriamo abbiano lo stesso effetto deflagrante che hanno avuto dentro di noi la prima volta, cioè rendersi conto quante e quali sono le potenzialità del fumetto, perché Andrea Pazienza diceva: la pazienza ha un limite, Andrea Pazienza no. Ed era vero, perché se voi vedrete queste tavole vedrete come una libertà assoluta data dalla consapevolezza di avere nelle sue mani tutti gli strumenti del mondo, e questo è incredibile. E fino al? Fino al 26 settembre, quindi insomma abbiamo tempo. E devo dire che mi sento di ringraziare Artemisia e Piuma, perché in un momento come questo, in cui è tutto chiuso e non se ne può più, ma giustamente si rispettano tutti i parametri per arginare questa pandemia che ha messo in ginocchio tutto nell'ultimo anno e mezzo, fare parte di questo nuovo tentativo di comunque riaprire, dare arte, fare cultura sul territorio e portarla alla gente è un qualcosa su cui crediamo molto, quindi meno male, incrociamo le dita che vada tutto bene. E attraverso i muri, attraverso le porte passano i fantasmi delle persone morte. Passa il desiderio di zombie proletari che solo nel silenzio sanno illudersi uguali. Passa il sogno perduto di ricomposizione. Ma come ricomporre un bacio, un'emozione? Passa un sogno suicida. Per questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti.